Radio 24 Reportage. Benessere per l'Africa. Una matita per il sogno di Kwame, di Gigi Donelli. Sono Sami Nkrumah, leader di un partito politico, il Convention People's Party o CPP. La Biblioteca Nazionale del Ghana, intitolata Kwame Nkrumah, è un progetto culturale che promuove un modello di sviluppo sostenibile capace di confrontarsi con il tema ambientale. Questo leggo dalle prime righe di una cartella stampa su un progetto che ha un titolo molto chiaro, Kwame Nkrumah National Library. Oggi con noi Sami Nkrumah, grazie di essere con noi, benvenuta. Grazie. E chiariamo subito, Samia è figlia di Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, per chi diciamo conosce un po' la storia dell'Africa, è uno dei massimi leader del Novecento africano, è stato a fianco dei grandi della terra, che è stato a fianco di Martin Luther King, che è stato a fianco di figure che hanno segnato il Novecento. Ha vissuto in pieno quella che è stata la crisi del primo panafricanismo, cosa che ha portato anche all'esilio, al suo esilio. E oggi diciamo che una parte del regalo di questo esilio è che Sami Nkrumah parla perfettamente italiano. Forse è il caso di dire subito perché. Perché ho vissuto qui in Italia per qualche anni e anche più importante il marito italiano. Perfetto. Quindi, e questo si spiega diciamo nel lato anche doloroso di un esilio, poi ci sono, come dire, si raccolgono delle compensazioni. Parliamo della biblioteca. Sami Nkrumah, qual è il progetto? Sì, ma è nata dall'idea di come possiamo conservare e promuovere l'idea e la visione di Kwame Nkrumah, perché noi in Ghana diciamo Kwame Nkrumah never dies, ma non parliamo dell'uomo umano, parliamo Kwame Nkrumah non è mai morto. Sì, parliamo dell'idea, di sua idea, che lui ha messo in diversi libri, quasi 14 libri, ma anche in tutte le sue speeches, in suoi incontri con leader di tutto il mondo, da America, India, Cina. Quindi dopo tutti questi anni stiamo pensando che non vogliamo che perdiamo queste eredità, naturalmente. Questo è l'uomo che è stato votato l'anno 2000 con un sondaggio dal BBC, The African of the Millennium. Quindi una biblioteca che conserva, sì, una fiamma, potremmo dire, in qualche infatti, modo. Perché non solo un archivio, diciamo, ma più importante di questo, un luogo interrogativo per interactive, luogo interattivo, grazie, che può non solo aiutare a comprendere queste visioni, che era praticamente tutto il progetto dell'African Freedom, non solo dal Ghana, ma tutti gli africani. Questo progetto è cominciato con l'indipendenza politica e adesso, dopo 50 anni, è venuto il momento di anche realizzare l'economic freedom, che le libertà economiche, che la libertà dal povertà, la libertà di creare la ricchezza del nostro popolo, la libertà di organizzare nostre, diciamo, vita, nostra economia per servire la cittadini africani. Ecco, a me piace sottolineare un aspetto. Nel 1957, dunque, Kwame Nkrumah porta l'indipendenza al Ghana. Il signor Nkrumah era qualcuno che non aveva delle ambizioni piccole, ma puntava molto alto. Non voleva solamente puntare alla decolonizzazione, che in quegli anni era comunque la priorità, ma puntava alla liberazione economica. Oggi il Ghana è un buon risultato di quell'idea. Stiamo di fronte a uno dei paesi più solidi economicamente. Il Ghana è un paese dove si possono perdere le elezioni per mezzo punto. Assolutamente. E non succede nulla. E non succede nulla, no. E c'è una stabilità politica, questo è chiaro. Dall'ultimo 20 anni, ogni 4 anni andiamo alle elezioni e due volte in questi 20 anni perde il governo. E c'è un trasferimento pacifico tra un partito e l'altro. Quindi abbiamo deciso come un paese che vogliamo stabilità politica. Ma adesso questa democrazia deve essere tradotta in un miglioramento nella vita di nostro popolo. E il growth, il PIL, la crescita che diciamo 7%, sì, fine, siamo contenti, ma deve tradurre in growth with jobs. Crescita e occupazione. Sì, occupazioni. Perché come diceva Kwame Nkrumah, l'Africa è ricchissima e gli africani che sono poveri. C'è qualcosa che non quadra effettivamente. L'Africa è ricchissima e gli africani sono poveri. Sicuramente una cosa che non è mai quadrato negli ultimi anni sono i temi della corruzione, sono i temi della dispersione, la divaricazione appunto del benessere. Poi negli anni più recenti il Ghana ha scoperto che oltre a essere il paese dell'oro degli Ashanti è anche il paese del petrolio. Infatti, sì. Ecco, sì, questo è un esempio pratico. Sì. Distribuire equamente una ricchezza. Sì, da 2010, voglio dire, abbiamo cominciato a produrre il petrolio anche. Ma noi, questo non è strano per noi. Noi per gli ultimi 100 anni Ghana produce l'oro, l'igname, cacao. Quindi siamo abituati a produrre. L'energia elettrica. Exactly. Ma il problema è che produciamo la materia prima. Invece dobbiamo comprare, importare tutte le cose costosissime. Quindi è venuto il tempo di aggiungere valore ai nostri prodotti. E quello è una cosa che dobbiamo focalizzare. Perché conviene investire su paesi come il Ghana? Molto importante investire sui paesi, ma investire anche e guadagnare tutte e due. Perché c'è tante scopo per partnership veramente produttivo, senza sfruttamento, e questo sarà buono per tutti. Infatti questo fenomeno di immigrazione non succederà se c'è un partnership genuino, perché se in Africa, nei nostri paesi, c'è opportunità di fare le cose, nessuno o pochi lasciano il paese. Collaboriamo per sfruttare la potenzialità nell'Africa. L'Africa è uno dei continenti che può dare a tutto il mondo, con più disciplina, più creatività, più anche collaborazione giusta, senza sfruttamento, il mondo può essere più ricco, intendo. Quindi questo veramente per me è un'opportunità per un dialogo che doveva succedere tanti anni fa. In che modo allora una biblioteca, peraltro progettata da un italiano, da Mario Cucinella, che forse alcuni ascoltatori conoscono per il suo lavoro, ha studiato con Renzo Piano, all'interno del quale peraltro bellissimo, siamo in un palazzo di Renzo bellissimo Piano, quindi forse vale la pena complimenti citarlo. Beh, grazie, naturalmente rivolgiamo i complimenti all'architetto. Ecco, dicevo, in che modo una biblioteca può aiutare questo passaggio dalla ricchezza delle materie prime alla diffusione di un benessere ragionevole per tutti? Sì, perché è un pensieri, tanti pensieri politici, culturali di un uomo che ha creduto che tutto è possibile. Quindi questo can-do spirit, noi diciamo in inglese, questa confidenza nelle stesse, fiducia nelle stesse, voglio dire, di cambiare le cose che dobbiamo cambiarle. E questo solo un pensiero, un cambiamento di pensieri può aiutare. Quindi noi, nostri paesi, abbiamo tutto. Che le bisogna? Le bisogna di avere il mindset, un modo di pensare che possiamo trovare le soluzioni in nostri, appropriate del nostro contesto. Quindi c'è un compito di riscoprire la nostra potenzialità. E uomini come Kwame Nkrumah avevano queste visioni. Per quello hanno messo tante enfasi sull'educazione. Non solo formale, la qualità dell'educazione. E l'educazione di riscoprire la forza di l'uomo e la donna africana. Quindi quello è il messaggio che noi vogliamo trasmettere alle generazioni giovani. E io trovo molto molto interessante che un uomo, un artista, diciamo, come Mario Cucinella ha capito un po', diciamo, il messaggio di Kwame Nkrumah e ha deciso di aiutare noi con queste progetto, questo modello incredibile, breathtaking modello di questa libreria, diciamo, che vogliamo fare per Kwame Nkrumah. E questo significa che il messaggio forte, messaggi per i progressi, per migliorare il mondo, messaggio che va al di là della razza, di religioni, della cultura, del background di noi. Quindi è una lingua comune tra di noi. Vogliamo che questo mondo, un mondo più umano, più bello, più contenti, più produttivi, e possiamo farlo insieme con il giusti piani, giuste visioni. Possiamo farlo insieme. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.